677. Dolce di ciliegie. Come dolce da famiglia è assai buono e merita di occuparsene. Ciliegie more crude, intere senza gambo, grammi 200. Zucchero a velo, grammi 100. Pan grattato di segala, grammi 50. Mandorle dolci, grammi 40. Uova numero 4. Rosolio cucchiaiate numero 2, odore di vaniglia o scorza di limone. Mancando il pane di segala, servitevi del pane comune. Le mandorle sbucciatele, asciugatele, tritatele minutamente per ridurle a metà circa di un chicco di riso. Lavorate prima i rossi d'uovo con lo zucchero finché siano divenuti spumosi. Aggiungete il pan grattato, il rosolio, l'odore e continuate a lavorare ancora un poco il composto. Uniteci le chiare ben montate mescolando ad agio e versatelo in uno stampo liscio che avrete prima ben unto con burro freddo e cosparso tutto e più nel fondo con le dette mandorle. Infine buttateci le ciliegie. Ma per evitare che queste per loro peso calino a fondo, mescolate fra il composto le mandorle che vi restano. Cuocetelo al forno o al forno da campagna e servitelo caldo o freddo a 4 o 5 persone.